Cantine di Franciacorta. Tappa di oggi non lontano dal Lago d'Iseo, a Cortefranca, presso la cantina Barboglio dei Gaioncelli. Azienda di grande tradizione, la produzione di vino risale alla seconda metà del 1800. 100.000 bottiglie all'anno, divise a metà tra bollicine e vini fermi. Andrea Costa, responsabile produzione ed enologo, definisce la parola chiave dell'azienda. Tradizione e innovazione. Quindi l'idea di mantenere le radici da dove i nostri antenati sono partiti, dalle loro motivazioni, e continuare però a evolverle con la nostra vita. Non solo cantina ma anche ristorante. Cosa farete per il festival Franciacorta in cantina? Degustiamo insieme l'Italia abbinata ai Franciacorti, quindi dei piatti regionali, dei piatti tipici, non solo provinciali, quindi non solo regionali, ma anche di altre regioni d'Italia, di modo che si possa far capire alle persone che il Franciacorta va bene davvero con tutto. È tutto, alla prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.